Vi potete presentare? Allora, io mi chiamo Alice dal Pra, ho 36 anni, vivo a San Sebastiano, sono sposata e ho una bimba di 3 anni e gestisco insieme alla mia sorella l'Hotel Al Sole a San Sebastiano. Io mi chiamo Marianna, vabbè, ovviamente dal Pra, e ho 31 anni, vivo anch'io a San Sebastiano e appunto con Alice, papà e mamma gestiamo l'albergo di famiglia. Si vive di sogni? E secondo me sì, anzi, cioè è proprio uno deve avere dei sogni altrimenti non può raggiungere nessun traguardo. Io ho iniziato dopo questa mia attività imprenditoriale, chiamiamola così, con l'hotel, perché prima avevo il sogno di diventare una sciatrice famosa. Poi questo sogno non sono riuscita a realizzarlo, purtroppo. E quindi poi mi sono dedicata all'attività di famiglia, però tutte quelle cose che io ho preso nel fare questo percorso sportivo adesso mi servono tantissimo anche per quello che è la mia attività, diciamo. Si vive di sogni. Ti dico di sì, però è difficile, cioè nel senso uno si aspetta che sia sempre tutto facile, in realtà l'imprevisto e la difficoltà è sempre dietro l'angolo, poi sta a affrontarla con il sorriso e andare avanti, insomma. Diciamo che poi noi essendo in due, avendo una gestione imprenditoriale a livello familiare, forse è anche un po' più comodo riuscire a portare avanti quelli che sono i propri desideri, ecco. Come hai iniziato la tua attività? Ma appunto, come vi dicevo, non ho iniziato subito con l'hotel, anzi era lontano dalle mie idee. Io diciamo che ho studiato lingue, avevo cominciato anche l'università. Avevo scelto appunto lingue perché non sapevo bene cosa avrei fatto, perché tutto il mio passato era centrato sullo sport, cioè tutte le mie scelte passate si basavano su quello, quando avevo tempo per fare l'allenamento, quanto tempo potevo dedicare, era tutto girava intorno a quello. Poi appunto ho abbandonato per vari motivi e con la Marianna, che aveva in quel momento finito le scuole superiori, abbiamo deciso di provare ad iniziare a gestire l'albergo. Nessuna di noi due sapeva nulla della gestione di un hotel, proprio zero, e quindi per noi il primo anno è stato veramente difficile. Avevamo sì i nostri genitori, ma mio papà ha sempre fatto anche un altro lavoro, quindi diciamo che ci ha aiutato sì, però in tante cose anche no. E niente, adesso dai, siamo contente di questa scelta che abbiamo fatto, ci dà molta autonomia, molta libertà di gestione anche del tempo libero. E anche se, come dice la Marianna, ci sono sempre tanti imprevisti da gestire, però dai. Sì, io quando abbiamo iniziato l'attività insieme, insomma, che abbiamo costituito la nostra società, avevo 19 anni, avevo appena finito il liceo, io ho fatto il liceo scientifico a Trento e non avevo idea di cosa fare nella vita, cioè nel senso l'università non avrei saputo dove iscrivermi, cosa fare, quindi l'idea, se non ci fosse stata la possibilità di prendere in mano l'azienda di famiglia, sarebbe stata prendersi un anno sabbatico e cercare di capire un po' che via prendere, insomma. Diciamo che abbiamo iniziato così, proviamo un anno o due come scommessa a vedere se va bene o non va bene, e quest'anno facciamo 12 anni di attività insieme, quindi dai, diciamo che sta andando abbastanza bene. Quali sono state le aspettative? Aspettative di per sé, quando abbiamo iniziato l'attività, non ne avevamo, nel senso, almeno personalmente, volevo vedere, capire di cosa si trattava veramente, di come funzionava, anche perché appunto rimanere tutti in famiglia è bello, però devi un attimo abituarti perché stai tutto il giorno con tua sorella, stai tutto il giorno con magari il papà e quindi anche a livello caratteriale bisogna riuscire a trovarsi, insomma. Le aspettative era proprio l'aspettativa era vedere se fossimo riuscite a far decollare questa attività, quindi era proprio una scommessa più che un'aspettativa. Sì, esatto, come ha detto lei, l'idea era vedere se in 2 anni riuscivamo ci sarebbe piaciuto fare questo lavoro, perché non era scontato, insomma io avevo 19 anni, lei ne aveva 24, quindi non è che per forza poi quello doveva essere il lavoro della vita, insomma non ce l'hanno mai imposto, nonostante l'albergo appunto sia di famiglia, insomma, quindi ci hanno sempre lasciato molto libere. L'aspettativa forse, ce l'aspettavamo forse un po' più comodo come lavoro, visto da fuori può sembrare un po' più semplice, poi in realtà entrare nella gestione dalla A alla Z di tutto quello che è appunto gestire un albergo si è dimostrato un po' più complicato, però dai, alla fine ce la stiamo facendo. Lavorare tutti insieme appunto non è stato comodo, bisogna trovare degli equilibri, infatti magari la Mariana si occupa più di un settore, io più di un altro, poi abbiamo provato, nel senso che quando gestisci un'attività così è vero che tra virgolette sei il capo, ok, ma il capo deve saper fare tutto, quindi va in sala, fa le camere, fa i conti, va in cucina, sostanzialmente quando c'è un imprevisto il capo subentra a tutte queste cose, ok, e quindi anzi a volte, soprattutto in questo periodo che è molto difficile trovare i dipendenti, a volte sei proprio tu stesso che ti metti a fare il lavoro che magari dovrebbe fare il dipendente, e quindi anche lì abbiamo capito le varie dinamiche, magari tipo, non so, la Mariana è più portata a stare in sala, mentre a me piace meno il contatto col pubblico, quindi piuttosto preferisco fare le stanze, e quindi abbiamo trovato una sorta di equilibrio, insomma, sulla gestione. Subentrare in un'azienda di famiglia a 19 anni, ti devi anche scontrare con quello che è l'idea che hanno magari i tuoi genitori di gestione di un'azienda, che magari quella che era la gestione di un albergo negli anni 80 e 90 non è proprio quella degli anni 2000, insomma, e oltre. Quindi insomma è stato difficile anche il primo anno far capire magari al papà, che per quanto sia giovane e in gamba, però magari che il tipo di turismo è cambiato, la clientela è cambiata, esigenze diverse, anche l'approccio o comunque l'offerta deve essere diversa, quindi insomma ci siamo scontrati un pochino anche lì, e però alla fine tutto sta insomma nel trovare un equilibrio. Diciamo che il bello del lavorare in famiglia è che se anche magari esplodi, litighi o quant'altro, comunque sai che è sempre tua sorella, è sempre tuo papà, quindi una spalla ce l'hai sempre, insomma, anche se magari è un momento difficile. Avendo magari un socio, anche se al 50%, però non è magari un familiare stretto, insomma, magari è diverso, ecco, anche perché comunque devi affrontare anche i problemi della vita privata, oltre che quelli della vita lavorativa, quindi diciamo che lavorare in famiglia è bello, però bisogna comunque sapersi ritagliare i propri spazi per poter sopravvivere, diciamo. Quali le difficoltà, anche in riferimento al genere, agli stereotipi, cosa significa aprire questo tipo di attività essendo donna folgaria? Essendo donna, avendo un'attività propria, diciamo che ti rende, secondo me, più autonoma, nel senso che indipendentemente dal tipo di attività, secondo me una donna deve avere la sua autonomia sempre, in qualunque momento, anche quando diventa mamma, anche quando si sposa, avere la propria autonomia è fondamentale per proprio garantirti la tua libertà personale. Essendo donna, forse nella gestione dell'hotel, ma in qualsiasi anche attività, è più facile fare più cose contemporaneamente e quindi riesci, non so, a gestire la reception, intanto pensi a cosa sta facendo il cameriere sopra perché magari gli devi dire una cosa, e intanto pensi che dopo dovrai andare a prendere tua figlia perché magari ha il corso da un'altra parte. Tutte queste cose, secondo me, fanno proprio parte del fatto di essere donna, ecco. Beh, stereotipi no, dai, non c'hanno, cioè, a Folgheria c'hanno sempre comunque anche gli altri colleghi, quindi gli altri albergatori o eccetera, insomma, non ci hanno mai guardato male. Magari qualche cliente un po' più anziano, quando mi vedeva al momento del checkout a fare il conto, e avevo 19 anni, mi ha guardato e mi ha detto: ma devo pagare proprio te, cioè, come dire, a 19 anni tu hai possesso della cassa dell'azienda di famiglia. Io rispondevo: beh sì, l'albergo è mio, cioè nel senso posso farti pagare, ecco. Però è successo un paio di volte, poi vabbè, ero giovane, mi hanno scambiato per una cliente, anche se non ero una cliente, insomma. Essere imprenditrice donna, quindi essere lavoratrice autonoma, ha i suoi vantaggi, come diceva lei, nella gestione del tempo, il fatto che non devi magari rendere conto a nessuno di quello che fai, eccetera. Dall'altra parte diciamo che è un po' complicato perché lo Stato e la burocrazia non aiuta. E come vedi il tuo futuro? E il mio futuro, vabbè, adesso lo vedo sempre lì e lo vedo sempre a fianco a mia sorella, insomma, e magari appunto con mia nipote e mio figlio che cresceranno, se avranno voglia magari di darci una mano o in futuro mandarci in pensione e gestirlo loro, insomma, ecco. E sì, le strategie appunto all'inizio erano tante, adesso abbiamo capito quale linea prendere, abbiamo cambiato proprio il modo di vendere la nostra struttura a livello turistico proprio, proseguiamo su questa linea, io mi vedo lì appunto, non so se con mia figlia o no, non voglio imporglielo. C'è un messaggio da dare ai ragazzi. Di seguire sempre, secondo me, i vostri sogni. Magari poi scoprirete che seguendoli non è la strada giusta, però sicuramente avrete fatto tutto senza avere un rammarico di non aver provato a fare quello che volevate. Anche se costa sacrificio, cioè io mi ricordo gli anni più belli di quando studiavo, facevo allenamenti e studiavo tanto, anche fino a mezzanotte, non uscivo con gli amici mai. Però per me sono stati gli anni più belli, dove ho coltivato comunque amicizie che ho ancora tuttora e che mi sono serviti per costruire anche l'altra parte della mia vita. Non mollare mai può essere un buon punto di partenza. Ascoltare i consigli, ma fino a un certo punto. Cioè, se siete convinti di una cosa e secondo voi quella va fatta e a modo vostro, continuate su quella strada. Poi magari andate a sbattere contro un muro e sarà una delusione, però almeno ci avete provato e la delusione sarà perché perché comunque l'avete fatto come avete voluto voi, ecco, non come ve l'ha imposto qualcun altro. Quindi andate avanti sempre comunque e non lasciatevi scoraggiare mai da nessuno, insomma. Soprattutto quando si fa ancora più dura, lì è il momento di insistere, perché dopo comunque c'è sempre la svolta, la soddisfazione personale. E se riuscite facendolo, divertendovi, magari quello lì avete raggiunto proprio il massimo, ecco.